Il punto di Stefano Folli. Non c'è dubbio che Berlusconi, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, sia obbligato a evitare conseguenze politiche sul governo, ma obbligato non significa che lo farà con convinzione. Diciamo che morderà il freno fino alla sentenza della Cassazione prevista per il tardo autunno, comunque prima della fine dell'anno. E mordere il freno è un'espressione che rende l'idea, descrive un personaggio che si sente prigioniero, ma che non può fare altro che stare calmo se non vuole compromettere il ricorso pendente presso la Suprema Corte. Infatti ci pensa un personaggio a lui vicino, ma non vicinissimo, come il senatore Gasparri, a minacciare Sfracelli. È un segnale, un messaggio a chi di dovere, perché Berlusconi spera sempre che le istituzioni alla fine gli daranno una mano, come non si sa.